versi 23-25. Lasciami vedere coloro che sono venuti qui a combattere nella speranza di far piacere al figlio malvagio di Dhritarashtra. Sanjaya disse: Shri Krishna ascoltò la richiesta di Arjuna e condusse lo splendido carro tra i due eserciti, o discendente di Bharata. Davanti a Bhishma, a Drona e a tutti i principi di questo mondo, Rishikesh, il Signore, disse ad Arjuna: guarda dunque, o Partha, tutti i Kuru sono riuniti qui. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shri Krishna è l'anima suprema situata in ogni essere vivente. Egli sa quindi perfettamente bene ciò che preoccupa Arjuna. In questo contesto il nome Rishikesh indica che il Signore sa tutto. Arjuna è chiamato Partha, figlio di Kunti o Prita. Questo nome è anch'esso significativo. Krishna è l'amico di Arjuna e vuole dirgli che egli accetta di condurre il suo carro perché lui è figlio di sua zia Prita, sorella di suo padre Vasudeva. Ma per quale motivo invita Arjuna a volgere il suo sguardo verso i Kuru? Arjuna vorrebbe evitare la battaglia? Non è questo che Krishna si aspetta dal figlio di sua zia Prita, e se gli fa questa osservazione è un po' per scherzo, per mostrargli che egli conosce bene i suoi pensieri.